versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio, cari ascoltatori della 24, 16:30 primi e 33 secondi. Oscar Giannino vi saluta qui dagli studi di Milano e vi ringrazia per l'ascolto, come sempre in diretta o in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar Chioccio, radio24.it, per proporre temi di trasmissione, domande, critiche, eccetera, eccetera. E va subito all'argomento della giornata per invitarvi a esaminare l'ipotesi, chiamarci e dirci la vostra opinione. 800 24 00 24 è il numero di telefono, lo sapete, 349-238-6666, quello per gli sms. Parliamo di Equitalia, anzi parliamo della abolizione di Equitalia. Perché? Perché dopo che storicamente l'hanno proposta forze politiche come la Lega e il Movimento 5 Stelle, virgola, quando la proponevano si alzavano cachinni, risa, accuse di proposte demagogiche. Alla fine la situazione si è evoluta ed è il Presidente del Consiglio che prima aveva detto a maggio che Equitalia non sarebbe arrivata al 2018. Sorpresa, sorpresa, il Presidente del Consiglio sposava le richieste di chi voleva abolirla. Lunedì ha stretto i tempi e sentite un po' che cosa ha detto parlando a una radio. Entro l'anno arriverà il decreto che cambierà definitivamente il modo di concepire il rapporto fisco-cittadini. Equitalia non ci sarà più, che non vuol dire che non si pagano le multe, però si pagano in modo totalmente diverso. Intanto te lo segnalo, te lo ricordo, ti mando l'SMS, ti dico ehi, non fare il furbo, cioè confermo che entro l'anno bye bye Equitalia. Ecco, quindi la gara nazionale ha, per così dire, scusate, non lo dico per ironia, ma un vincitore, cioè il vincitore, se va così, è il Presidente del Consiglio che si ascrive questa medaglia. Allora, il problema è che il rischio della demagogia in questi annunci c'è, se mi consentite, cari ascoltatori, perché il punto non è abolire Equitalia, il punto è capire che cos'è Equitalia oggi, uno, due, capire perché è diventata così impopolare, cioè perché ci ha messo così tanto tempo l'apparato, ha detto la riscossione dell'amministrazione tributaria, a capire che bisognava graduare rispetto agli effetti della crisi la capacità di valutazione del reddito residuo del soggetto a cui si chiede di ottemperare al debito fiscale e quindi con procedure che non fossero troppo aggressive, senza, giustamente dice il Presidente del Consiglio, dimenticare l'obbligo di pagare le tasse, ma con la capacità di non uccidere il contribuente, sia esso persona fisica o persona giuridica. Il problema qual è? È che finché non ci dicono con che cosa viene sostituita Equitalia, perché nessuno Stato può ovviamente rinunciare a un apparato volto alla riscossione, se non ci dicono chi la controlla, il nuovo soggetto, sotto quale ombrello verrà messo, quali saranno le regole fondamentali nuove e diverse a cui si ispirerà l'apparato di riscossione, quale sarà l'aggio, cioè la percentuale delle imposte messe a ruolo che verrà riconosciuto a quel nuovo soggetto rispetto al 6%, era l'8% fino a pochi anni fa, che oggi in media viene riconosciuto a Equitalia e contro la quale ci sono molte pronunzie di commissioni provinciali tributarie. Se non ci dicono tutto questo, voi capite che gli annunci, insomma, li conosciamo, ecco, servono a iniziare a ripetere un mantra per incamerare nel tempo riconoscenza. Ma il nostro appuntamento di oggi è proprio volto a farvi riflettere su quali sono i punti rispetto ai quali, se non siete commercialisti, non siete esperti di diritto tributario, ma siete solo contribuenti, di questo si parla, quali sono le cose fondamentali che dovrebbero essere chiare nella vostra testa per giudicare poi, quando ci sarà detto, chi sostituisce la vecchia Equitalia, con quale nuovo soggetto, con quali regole, controllato da chi, eccetera, eccetera. Io vi dico solo tre cose prima di presentarvi gli ospiti esperti molto più di me. Allora, Equitalia oggi è una cosa completamente diversa dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate nel frattempo, negli anni da che è stata creata, Vincenzo Visco, si è davvero a mio giudizio, ne abbiamo parlato molte volte, appropriata di molti poteri che probabilmente non gli spetterebbero, è diventata l'interprete esclusivo, al di là poi dei giudici, delle norme tributarie. È lei che scrive letteralmente le circolari, che sono diventate la vera fonte di diritto tributario nel nostro paese, con tanti saluti all'articolo 23 della Costituzione. È lei titolare molto spesso del potere di scrittura vera dei testi normativi fiscali, e era lei che rispondeva in Parlamento quando i parlamentari rivolgevano interrogazioni in materia fiscale, e arrivava per risposta la nota dell'Agenzia delle Entrate letta dai sottosegretari. Ecco, Equitalia non è così, nel senso che opera secondo principi, norme e modalità che sono stabilite o dall'amministrazione tributaria, ancora una volta, o appunto dal Parlamento e dal Governo. Quindi il problema, punto numero uno, è più importante che ci spieghino come cambiano queste procedure, se cambiano, piuttosto che cambiargli di nome. Però poi ci sono altri problemi. L'aggio ha un senso, l'aggio, cioè la percentuale riconosciuta, ha un senso se il soggetto volto alla riscossione nel frattempo anticipa dei soldi agli enti che hanno emesso il titolo esecutivo, cioè per conto dei quali lei raccoglie. Ma visto che non funziona così, Non anticipa denari all'Agenzia delle Entrate, ai comuni, alle regioni, alle camere di commercio, eccetera eccetera, allora questo aggio a cosa serve? Voi direte a quel punto: ai costi operativi delle procedure. Non è così, se uno va a vedere i costi operativi, e quindi c'è molto da discutere su questo aggio. Terzo, i suoi 8.000 dipendenti. Guardate che non c'è un passato della riscossione da rimpiangere prima di Equitalia, perché è stata per decenni nella Repubblica affidata a società di emanazione bancaria, cioè società delle banche che a livello territoriale, provinciale, spesso talvolta subprovinciale nelle aree più ricche, erano addette alla riscossione. Si beccavano un aggio a doppia cifra ed escludevano intere categorie di contribuenti dall'esecutività delle cartelle, a seconda che se fossero clienti, amici, dei soci delle banche e così via. Quindi è un modello da non rimpiangere, assolutamente no. Però detto questo, è anche vero che in questi anni abbiamo accumulato delle esperienze negative su Equitalia molto molto forti. Nel 2015 ha raccolto 8,24 miliardi di euro, ha superato quindi la raccolta 2011, che era l'ultimo anno prima dell'esplosione dell'eurocrisi, e più o meno la metà di questi 8,2 miliardi è andata all'Agenzia delle Entrate, poco più di un quarto, il 28%, quasi il 29%, all'INPS. Quindi ci sono anche la riscossione dei contributi che non vengono versati, il 6,7% ai comuni, una percentuale più o meno analoga alle camere di commercio e altri enti pubblici, il 5% ad altri enti erariali, quindi titolari di un potere di imposta, tra cui al primo posto le regioni e poi l'INAIL. Questo è per conto di chi fa la raccolta. Ultima osservazione, la terza: dal 2013 è facoltà per i comuni auto-organizzarsi, e per gli enti locali della verità, cioè per gli enti locali erariali, di auto-organizzarsi la raccolta, chiamandosi fuori da Equitalia. A parole l'hanno annunciata come impegno oltre 2.000 sindaci, cioè una bella percentuale. Di fatto però, per essere efficienti e trasparenti nella riscossione, un conto è dirlo, altro è farlo, perché bisogna avere risorse specializzate, eccetera eccetera. E quindi attenzione a chi pensa che poi la raccolta, la riscossione locale sia più efficiente. Il vero problema è che ci spieghino come le procedure di riscossione siano più amichevoli. Fine della lunga premessa. I nostri due ospiti: abbiamo con noi l'ex presidente del Consiglio Nazionale di Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, Claudio Siciliotti, grazie di essere con noi. Buonasera Giannino e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. E Guido Castelli, sindaco di Ascoli, responsabile appunto della finanza locale dell'ANCI. Buon pomeriggio sindaco. Buon pomeriggio, un caro saluto, anche se l'argomento insomma non genera entusiasmo, no, immagino, però, l'ascoltatore. Però l'annuncio che potrebbe, speriamo, migliorare. Allora io inizio con lei sindaco, cioè sì, se potrebbe migliorare, secondo lei, alla luce del fatto che per moltissimi comuni è diventata una specie di promessa elettorale quella di dire no, ce lo facciamo per i fatti nostri, io sono un po' dubbioso sull'efficienza, l'ho già spiegato, ma lei come responsabile finanza locale dell'ANCI cosa si aspetta? Avrete un confronto? È già entrato nel merito il confronto, perché per farlo entro la fine dell'anno vuol dire che ci sarà un testo bello dettagliato, o no? Assolutamente no, tant'è vero che io di questi annunci temo ancora una volta la naturale funzione demagogica ed elettorale, perché io mi chiedo, ma come può il Premier dire entro il 2018 caccio via Equitalia, entro il 2016 i comuni usciranno, quando non ci dice con quali norme e con quali soluzioni operative, tecniche e concrete sarà possibile per noi ragionare di riscossione in maniera efficiente. Lei consideri che quel 6,7% no, del sì, monte complessivo sì, di Equitalia, lo diceva, è appannaggio dei comuni, sì, ma è una cifra assolutamente lontana da quelli che sarebbero invece i rendimenti che i comuni chiedono. Lei pensi, in 10 anni il comune di Ascoli ha emesso multe, quindi è passato a Equitalia, multe per 7.600.000 euro. Sì. Sa quante materialmente le abbiamo riscosse tramite Equitalia? 240.000. Questo vuol dire che abbiamo fatto multe che sono rimaste in un limbo, che purtroppo, io lo devo dire assumendomi la responsabilità di quello che sto per proferire, ma è bene che i radioascoltatori lo sappiano, perché i piccoli conti, piccole cartelle, che in genere sono di 100 euro, 60 euro, 120 euro, alla fine Equitalia non le riscuote, perché mettere in moto un meccanismo anche costoso di riscossione fa sì che vi sia quasi una selezione a monte di ciò che merita, come dire, l'applicazione del caso per poter ottenere appunto la riscossione, ciò che invece viene lasciato in un limbo. Sa quanto ammonta in Italia, sono calcoli spannometrici ma non vanno lontano dal vero, tutto l'insieme di queste somme del limbo? Bene, si parla di qualcosa che potrebbe per i comuni ammontare a 12 miliardi di euro, cioè quando il Premier dice esco fuori da Equitalia, deve anche dirci come innanzitutto dovremo organizzarci per riscuotere le tasse, perché poi voglio dire è molto bello dire andiamo via da Equitalia, poi non possiamo raccontare le stupidaggini al contribuente quasi che l'uscita da Equitalia vuole essere l'uscita dalla responsabilità, certo, che ogni cittadino ha di pagare le tasse. Prima cosa, noi dovremmo oggi come oggi confidare, lei lo sa meglio di me, sul regio decreto, questa è la norma del 14 aprile 1910, già, poco più o meno insomma i tempi di Baba Beccaris, quando noi abbiamo già le nostre belle difficoltà, perché non è che abbiamo poi strutture burocratiche così efficienti e capaci, abbiamo il turnover bloccato, quindi organizzarci come io stesso sto cercando di fare è una fatica boia, ma per il semplice motivo che applicare quelle norme per sostituirsi a Equitalia non è facile, cercheremo di farlo. Il secondo problema è che ci sono tutti questi incagli, queste NPL vorrei dire, ma quello è un altro problema, di soldi che in realtà sono nel pancione di Equitalia, di proprietà dei comuni, che tuttavia devono essere resi oggetto di una precisa verifica, perché uscire da Equitalia vuol dire anche regolare queste partite che sono i nostri bilanci, e questo è un problemino non da poco che impatta con i principi di finanza pubblica. Quindi io pregherei il nostro Premier, che io per carità conosco da tempo e che insomma sono il suo sindaco, uno dei tanti sindaci con cui condivideva esperienza a Lanci, di abbinare ai suoi annunci qualche indicazione su, primo, le norme dell'ingiunzione fiscale da ammodernare per far sì che realisticamente i comuni possano incassare quel che è necessario, e poi anche una riforma fiscale, perché il problema è quello: o si rifà complessivamente un'organizzazione tale da rendere un po' meno giungla anche il fisco locale, oppure i problemi della signora Maria rimarranno tali e quali, anche se Equitalia si dovesse chiamare con un acronimo diverso. Ok, io non lo sapevo che questa sarebbe stata l'opinione del sindaco di Ascoli. Devo ammettere che anch'io penso che al di fuori di una riforma generale, no, con alcuni principi nuovi fiscali, e in questo io sono un deluso dell'esercizio della delega fiscale, ve lo dico fuori dai denti, beh, penso che non è cambiare il nome che ci cambierà la vita. Sentiamo come la pensa, iniziamo a sentire, poi ci sarà una pausa a un certo punto, come la pensa Claudio Siciliotti di questo annuncio. Ma voi della professione cosa avete capito? Cosa ci aspetta? Perché tra pochi mesi che dovrebbe arrivare la rivoluzione. Allora, la prima cosa che mi sento di dire è che è realmente difficile commentare ciò che in realtà non si conosce, l'avete già detto. Poi due osservazioni preliminari. Quando si cambia probabilmente per migliorare l'efficienza della riscossione, non certo per peggiorarla, quindi questa non sarebbe una gran notizia per i contribuenti. Quando si dice la riscossione non sarà più vessatoria, ricordo che non è vessatoria la riscossione, ma sono vessatorie le tasse. Questo è il tema. La riscossione è soltanto lo strumento, il mezzo. Quindi forse ci dovrebbero dire che cosa vuol dire questa riforma? Vuol dire riduzione degli aggi? Vuol dire che ci dovremo dimenticare ganasce fiscali e prelievi coattivi? Non credo proprio. E non penso neppure che sostituire le raccomandate con mail o SMS sia una grande novità. Mi pare più modernismo che modernità. I punti secondo me sono tre, molto importanti. Primo, le nostre aliquote fiscali IRPEF sono invariate dal 2007, prima della crisi. Nessuno vi ha mai messo mano. Perché questo? Perché forse aumentando le aliquote, questo significa aumentare le tasse, ridurle significa ridurle. Invece si preferisce magheggiare sugli imponibili piuttosto che in maniera trasparente operare sulle aliquote. Secondo, l'ha già detto il sindaco di Ascoli, una riforma del sistema non c'è. E il nostro sistema si regge sulla riforma degli anni 70, dove esisteva un'economia locale, dove non esisteva l'euro, dove non esistevano i flussi migratori, non esisteva internet. E la stessa globalizzazione era la visione di menti prospettiche. Certo. È un mondo del tutto diverso da questo. Non possiamo andare avanti con lo stesso sistema a rattoppi successivi, ma in un mondo che è profondamente cambiato. Ultimo tema. Non ci dimentichiamo, noi abbiamo un contenzioso fiscale profondamente sbilanciato a favore del pubblico, con prelievi provvisori che molte volte ti espropriano di quello che non devi. Allora dico una cosa che ho detto in altri contesti, ma noi abbiamo creato l'Agenzia delle Entrate per rendere più efficiente la macchina della riscossione. Non ci possiamo immaginare l'Agenzia delle Uscite per controllare come si spende la spesa pubblica e per intervenire in maniera immediata dove ci sono sprechi, abusi, più che norme per volte a colpire quello che col cartone in testa timbra il cartellino. Ma facciamo riforme di sistema, quelle grosse, quelle significative, perché il pubblico può chiedere al privato quando applica quelle stesse regole a se stesso prima che richieda ai cittadini. Altrimenti questa dissociazione tra cittadini e governanti, cittadini e politica, si amplierà e non si restringerà. Dimenticavo, a conferma di quello che dice adesso in conclusione Sicilioti, che fin dall'inizio la Regione Sicilia è stata esclusa dal sistema di riscossione nazionale, ha una propria agenzia di riscossione che solo recentemente, ne abbiamo sentito stamattina di nuovo ai microfoni di Radio 24 insieme a Alessandro Milan, stamattina attenti a noi due, grazie a Antonio Fiumefreddo, molto mal sopportato dalla politica siciliana, ha iniziato a fare quello che nella Regione Sicilia non avveniva da decenni, cioè le cartelle emesse nei confronti degli enti pubblici regionali, della regione, dei comuni e personalmente dei politici eletti, dai consiglieri comunali, ai sindaci, ai cosiddetti deputati regionali, bene, a quelle l'Agenzia Regionale della Riscossione Siciliana non dava mai corso. E quella bella categoria di cittadini eletti non nel senso di scelti dal popolo ma eletti nel senso di Thomas Mann, bene, loro non avevano la preoccupazione di doverle poi davvero pagare le tasse. Capite bene in che paese viviamo? Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, eccoci qui tornati in diretta. Abbiamo tentato di spiegarvi con i nostri due ospiti, il sindaco di Ascoli, che è responsabile della finanza locale dell'ANCI, l'ex presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e esperti contabili, Claudio Siciliotti, che in realtà l'annuncio, aboliamo Equitalia entro fine anno, per il momento ci dice molto poco, se non ci dice da che cosa verrà sostituita, sotto chi ammetteranno? Sotto l'Agenzia delle Entrate, come ha chiesto l'Agenzia delle Entrate, oppure separando chi fa gli accertamenti, cioè l'Agenzia delle Entrate dal braccio esecutivo, al MEF? Magari come faranno con gli 8.000 dipendenti che hanno ancora un contratto bancario rispetto al resto della pubblica amministrazione? Resterà all'agio? Come cambieranno le procedure esecutive? E queste sono le cose che contano, ma poi contano davvero queste o quello che manca è un intervento generale sulle aliquote medie, mediane, una riforma fiscale? Ecco, questi sono i temi che dovrete tenere in testa quando vi spiegheranno in cosa consiste l'abolizione di Equitalia. Per il momento l'ANCI non ne sa nulla, sentiamo come ne pensano alcuni di voi. Cominciamo con Carlo da Savona. Carlo, prego. Ciao Oscar, buonasera. Buonasera. Complimenti in ogni caso per la trasmissione, io e te ci conosciamo anche di persona per un paio di cose che abbiamo fatto insieme proprio in zona. Comunque, dunque, io faccio il commercialista da più di 20 anni e diciamo che questa riforma, e io la chiamerei più un accentramento che una riforma del sistema di riscossione, mi mette qualche dubbio. Non vorrei che fosse la necessità magari di Equitalia di sbarazzarsi di vecchie pendenze ancora, voglio dire, nella sua saccoccia e nel suo portafoglio. Quello che volevo chiederti però è se secondo te questa potrebbe essere forse una finestra nella quale, voglio dire, già da un po' di tempo, da maggio insomma, di quest'anno, si parla di questa famosa pseudo rottamazione delle cartelle. Mm-hmm. Cioè, se effettivamente, voglio dire, potrebbe essere l'occasione col quale il fisco si mette una mano sulla coscienza e dice: ah, siamo stati effettivamente un po' troppo, mi permetto di usare il termine che usi te, ladri. Mm-hmm. E voglio dire, forse è il caso che l'agio lo lasciamo fuori, ci mettiamo un po' d'accordo. Ah, con domanda precisa, no? Io posso parlare della mia impressione. La mia impressione è che tu colga uno dei punti. Se vogliono utilizzarlo in chiave politico-elettorale, la risposta sarà sì. Naturalmente resta poi il problema a quel punto posto dal sindaco di Ascoli, perché sul pregresso gli enti e i soggetti per cui Equitalia è in arretrato con la riscossione di cifre imponenti, a quel punto loro cosa fanno? Ciao ciao alle somme? Quindi ci sono bei problemi che si pongono su quello, però io credo che questa sia una delle cose che stuzzica la testa del nostro Presidente del Consiglio, ma la mia è un'illazione. Gino da Genova, come la pensa? Pronto? Eccoci, Gino, prego. Buongiorno. Io faccio anch'io commercialista, quindi lavoro quotidianamente, sì, con queste cose. Io ho un caso solo, mi inquieta un po', a proposito di questo caso, quando sento parlare così, tu aboliamo l'Equitalia. Io vivo in un comune che ha tolto l'Equitalia per la riscossione dei suoi tributi. Sì. Ho qui davanti a me, che l'ho risolto in questi giorni, tribunale civile, atto di pignoramento presso terzi. È un signore del 1934, che quindi è anche un attentato alla vita, per 152,99 euro di TAR su rata non pagata 2012, gli hanno fatto pignoramento presso la banca. Cita il signore, è il terzo pignorato a comparire innanzi all'illustrissimo giudice dell'intestatario tribunale all'udienza che lo stesso terrà il giorno 28 giugno 2016, ore di rito. Questo si è visto arrivare questa cosa qui per 152 euro dal comune, ecco. Io sono un po' inquietato, l'Equitalia è una cosa così, cioè nella non sua, l'ho mai vista. Nella sua esperienza, altro che meno invasivo, l'annuncio di molti sindaci, ce la facciamo in casa Equitalia per non vessarvi, almeno nel suo caso, appena testimoniato, mi sembra che sia vero il contrario, per così dire. Però Castelli, ce lo dica alla fine, il governo per forza dovrà passare nel confronto con voi, no? Necessariamente, del resto ne parliamo da tanto tempo, poi però al di là di misure spot che sono anche discutibili, una la voglio citare, noi non abbiamo mai avuto un tracciato di riforma che ad esempio volesse superare uno degli elementi più criticati quando volessimo decidere non di internalizzare il servizio, ma di affidarci a un altro, sì, gestore, perché ce ne sono sul, certo, mercato di gestore. Certo. Lei pensi che ancora sulla base delle norme vigenti, oggi luglio 2016, il gestore esterno ha diritto di pretendere che le somme che vengono incassate transitino nel suo conto, esatto, corrente, esatto, non in quello del comune. Ma sa quanti ce ne sono stati di casi in cui il gestore ha detto arrivederci cari, magari... No, no. Sono casi, quindi, storici nella giurisprudenza italiana, è proprio così, che sono affollatissimi. E poi c'è un altro rischio, cosa che fra l'altro conosce bene il Premier Renzi, che la mancata riscossione di una somma, come dire, corretta, congrua, non esagerata, perché poi c'è anche il problema, sì, dell'ipertassazione, rischia, se non riscossa correttamente, di essere messa a carico del contribuente, diligente. È il caso della Tari, perché sanno tutti che dall'anno scorso le cosiddette quote inesigibili